Winky. Notturna si fa lacrima di cuscino mortale, futuri abbandonati su un pianto così sano e tetto di futuro d'amianto, per chi non ha nulla, ma gli è rimasto un miserere incanto, incanto, varco, luoghi di solitudine, deserto e ora, di un passato che ho divorato, dal digiuno mangiando il poco ricordo, di me stesso con la bara alle spalle di un amico morto, detesto solitudine manifesto, nuova rinascenza lontana, stanza solitaria, gente cresciuta come sterile, dentro una campana di un dindi rondan, fanno solitari cuori tondan, alle messi degli amori, degli orrori, accontentarsi di un amen nei cuori, droghe e veleni eroici, poco consolatori, ori che la coscienza di rugiada piove sulle viole nere, il sole, ragazzi di diari di blog parlano scritte solitarie in rosso, bambola di sangue, danza rituale di niente, ti vedevo sola, vendicatrice di te tra la gente, sesso per una sporca tangente di droghe, d'astinenza emotiva nella mente, placebo di lacrima di un mondo incontinente, che non si accontenta mai di niente, spergiuro di un dolore nella mente, notturna si fa lacrima di cuscino mortale, futuri abbandonati su di un pianto di sangue, tetto di futuro d'amianto, per chi non ha nulla ma gli è rimasto un miserere incanto, varco luoghi di solitudine, deserto e ombra di un passato che fu divorato dal digiuno mangiando il poco ricordo di me stesso, camminando con la bara alle spalle di un amico morto, detesto solitudo e manifesto, nuova rinascenza lontana, stanza solitaria, gente cresciuta come sterile, dentro una lacrima di rindondan, fanno solitari cuori alle messe degli amori, accontentarsi di un amen nei cuori, ragazza di diario blog, parlano schizzi solitari al rosso, bambano sangue, danza ora, rituale.